Letture di Radio 24. L'idea che il XX secolo sia stato il più sanguinoso della storia viene smentita quando si confrontano numeri e dati storici. Al di là di quelle che possono essere le nostre percezioni, nel corso dei secoli la violenza è invece notevolmente diminuita. Merito soprattutto della ragione, come sostiene Steven Pinker, docente di psicologia all'Università di Harvard, in un articolo pubblicato su Nature e proposto in Italia sull'ultimo numero di Lettera Internazionale. Siamo inclini a pensare che la vita moderna sia più violenta perché i dati storici delle epoche recenti sono più completi e perché la mente umana sopravvaluta la frequenza di eventi intensi e memorabili. Noi tutti oggi ci interessiamo molto di più alla violenza. La storia antica è piena di conquiste gloriose che oggi sembrerebbero classificate come genocidi, per non dire che alcuni grandi condottieri del passato rischierebbero oggi di finire processati come criminali di guerra. I tentativi di contare i morti dei secoli via via più lontani suggeriscono che molti degli imperi che crollavano, dei maniaci conquistatori, delle invasioni delle tribù a cavallo, dei commerci di schiavi e dell'annientamento di popoli indigeni avevano un numero di vittime che, al netto della popolazione, sono paragonabili a quelli di ciascuna delle due guerre mondiali. E prima della civiltà come noi la conosciamo, la guerra era ancora più sanguinosa. L'archeologia forense e la demografia etnografica dimostrano che circa il 15% delle persone che viveva in società non governate da uno Stato moriva di morte violenta, 5 volte la percentuale di morti violente del XX secolo a causa di guerre, genocidi e carestie causate dall'uomo. Inoltre, un secolo è fatto di 100 anni, non solo di 50, e la seconda metà del XX secolo ha stupito gli storici militari per la mancanza senza precedenti di guerre tra paesi sviluppati e tra grandi potenze. Se è vero che da un lato le guerre civili sono aumentate negli anni successivi alle due guerre mondiali, va anche detto che le guerre civili tendono a essere meno distruttive delle guerre tra stati e anch'esse sono diminuite di numero per quanto riguarda la quantità di morti. Ci sono stati meno morti in guerra nel primo decennio del XXI secolo che in uno qualsiasi dei 5 decenni precedenti. In Europa il numero degli omicidi è sceso almeno di 30 volte rispetto al Medioevo. Nel XIV secolo, su 100.000 persone, i morti ammazzati erano circa 40 all'anno. Alla fine del XX erano scesi a 1,3. Abitudini barbariche che sono state quasi la regola per millenni, come i sacrifici umani, la persecuzione delle streghe e degli eretici, la schiavitù, gli sport sanguinari, le torture e le mutilazioni punitive, le esecuzioni sadiche, bruciature, fratture, crocifissioni, sventramenti, impalamenti e le esecuzioni per crimini senza vittime sono state abolite nella maggior parte del mondo. Gli ultimi 50 anni hanno visto una serie di rivoluzioni nei diritti civili, delle donne, dei bambini, degli omosessuali, degli animali, che hanno evidentemente fatto scendere il numero dei linciaggi, dei pogrom, degli stupri, delle violenze coniugali, degli abusi sui minori, di pratiche come le sculacciate, di comportamenti offensivi verso i gay, di pratiche persecutorie contro gli animali da laboratorio. Il declino storico della violenza è un rompicapo scientifico difficile per chiunque si interessi alla natura umana. Il comportamento aggressivo si ritrova in tutta la storia e la preistoria della nostra specie e non mostra segni di essere stato inventato in un luogo e poi diffuso in altri. Il cervello umano ha conservato i circuiti mammaliani per la rabbia e per il predominio. Infatti tutti i ragazzi del mondo giocano alla lotta e la maggior parte degli adulti ha fantasie omicide e ama l'intrattenimento violento e la variazione nelle tendenze violente degli individui è sostanzialmente ereditabile. Allo stesso tempo va detto che non esiste una sola categoria della violenza che sia rimasta costante nel corso della storia. Che cosa ha causato la diminuzione della violenza? Poco o nulla del suo declino può essere spiegato dalla selezione naturale. L'evoluzione biologica ha un limite di velocità misurato in generazioni, mentre la riduzione della violenza si è manifestata nel corso di decenni o di anni. La spiegazione più promettente è che le componenti della mente umana che inibiscono la violenza sono diventate sempre più efficienti. La diffusione dell'empatia, favorita dall'alfabetizzazione, dai viaggi, dal cosmopolitismo, aiuta a spiegare perché la gente sempre più oggi rifiuti le punizioni crudeli e si preoccupi dei costi umani delle guerre. Ma l'empatia non può spiegare tutto. Dal punto di vista psicologico, Ciò che più ha contribuito al declino della violenza nel lungo termine è la ragione, cioè le facoltà cognitive, affinate dallo scambio di idee attraverso il linguaggio, che ci permette di capire il mondo e di negoziare accordi sociali. Perché la ragione porta a meno violenza? Due condizioni tendono ad allineare ragione e non violenza. La prima è che quelli che ragionano hanno a cuore il proprio benessere. La seconda è che chi ragiona fa parte di una comunità di ragionatori che possono incidere sul loro benessere e che possono comprendere ogni ragionamento degli altri. Le forze della ragione non hanno, è ovvio, spinto costantemente in una sola direzione, né renderanno mai reali le utopie, ma la ragione non ha solo migliorato la nostra salute, la nostra esperienza e la nostra conoscenza. Ha reso il mondo un luogo meno violento e in maniera quantificabile. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Steven Pinker, Domare il diavolo in noi, dal numero 110 del trimestrale Lettera Internazionale. Ansiosi e iperprotettivi, i genitori moderni sono diventati i sindacalisti dei loro ragazzi, pronti a dare battaglia a chiunque osi criticarli. A giudicare dalla cronaca, dai sondaggi, dagli esperti e dalla spiccia quotidianità, siamo di fronte a una svolta sociale educativa, con madri e padri poco disposti a vedere messo in discussione il proprio erede e disposti invece a tutto purché abbia lo stesso posto coperto in famiglia, di numero uno. In una scuola di Bologna, per la recita natalizia, c'è stata una sollevazione di mamme indignate dal fatto che la natività preveda una sola stella cometa, con abito ad hoc per la bambina prescelta. E perché mia figlia deve fare solo la stellina nel mucchio? A bordo campo di calcetto, pallavolo o rugby, il papà che litiga con l'allenatore perché il figlio sta troppo in panchina è un classico. Mio figlio ha ragione, recita il mantra soprattutto dei 30-40enni avvocati difensori della prole. Al TAR arrivano puntuali i ricorsi di genitori che contestano bocciature anche a partire dalla prima elementare. Lista infinita, rischio noia, che dà ragione all'etichetta di genitori sindacalisti coniata da Antonio Polito sul Corriere della Sera e confermata dai dati che arrivano dall'Osservatorio sulla famiglia e la persona. Non è quasi mai responsabilità del figlio o del bambino, soprattutto se è piccolo, ovvero se ha meno di 16 anni. Il 46% dei 750 intervistati risponde infatti che è penalizzato dal mondo esterno e la percentuale scende al 42% se l'erede è maggiorenne e al 39 dai 20 anni in su. Dati sconcertanti se si pensa che per generazioni gli italiani sono cresciuti con l'idea che la cosiddetta autorità avesse sempre buoni motivi per intervenire. Secondo l'Istat, in Italia c'è un figlio unico su 4 bambini e un nato su 3 ha genitori separati. Nel mondo virtuale, come in quello reale, i genitori del 2000 vedono solo pericoli. Le risse fra bambini, le sane sudate di un tempo, le pene di cuore, le serate gagliarde, i viaggi, tutto è pericoloso, da evitare. Il mondo fuori è rischioso. Trattasi di semplificazione. Se ti occupi dei bisogni, controlli che tutto vada bene. Hai svolto la tua funzione. Fine. È più dura assumersi la responsabilità di mettere il figlio alla prova, accollarsi il rischio, non sapere cosa fa. Si sta crescendo una generazione di inetti. Tantissimi bambini non sanno badare a se stessi. Ci sono liceali che non sono in grado di prepararsi un panino, che non sanno litigare con i coetanei, non sanno reggere un fallimento, un professore duro. L'ha preso in antipatia, il ritornello della mamma chioccia fin dalle elementari. Attenzione, perché l'iperprotezione non abitua i bambini a valutare le conseguenze delle proprie azioni. Si cresce per tentativi ed errori. La verità è che il mestiere di genitore non lo insegna nessuno. E chissà per quale maleficio, quando si passa dall'altra parte della barricata, non si ricordano i rischi corsi, le paure provate per verifiche, interrogazioni e note da far vedere ai genitori per via della firma. Sono cancellate le contraddizioni, il bisogno di sentirsi nei pensieri di mamma e papà, ma anche la voglia di indipendenza. Perché i genitori di oggi si dimenticano i bambini e gli adolescenti che sono stati? Le esagerazioni, il gusto di infischiarsene delle regole, l'insicurezza, le paranoie adolescenziali. Solo quando si sta bene si può dare. Altro slogan generazionale dei nuovi genitori. Nessuno che ammetta che non ha voglia di accompagnare il bambino a nuoto, che si sente in gabbia a non uscire la sera, che sono pesanti in commedia i ruoli di mamma e papà. E le repliche da fare sono tante, e di sostituti, seppur temporanei, in giro ce ne sono pochi. E poi Vai a fidarti. A furia di comunicare poco e niente, di non esserci, il genitore che si improvvisa avvocato difensore rischia di non conoscere il suo cliente. Si erano immaginati Biancaneve e hanno in casa Lolita. Dopo aver cancellato la parola dovere, ignorato responsabilità, si disperano se scoprono casualmente, magari su Facebook, che il figlio è uno smidollato. Susanna Mantovani. Sotto la campana di vetro non può maturare l'autostima del bambino. Essere lucidi nel vedere il proprio figlio non è facile. Spesso si è innamorati. E anche questa è una forma di immaturità. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Stefania Berbenni, Mio figlio ha sempre ragione, da Panorama del 22 febbraio.